mai visto. In collaborazione con Coop, ti aspetta nel supermercato del futuro in Expo Milano 2015. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. I saluti vi arrivano anche da Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli che sono in redazione, Andrea Roccabella che è in regia. Le coordinate per interagire con noi, gli sms al 349-238-6666, Twitter Giampaz oppure Nessun Luogo 24, la pagina Facebook invece del programma è Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24. Tante le pagine di esteri di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, iniziamo dalla Turchia. Two attackers and a policeman have been killed after a blast at a police station in Istanbul. They were reportedly killed in a firefight that continued into the morning in a district on the Asian side of the Bosphorus waterway. E come avete sentito, Istanbul è stata colpita da due attacchi, uno a una caserma, una stazione della polizia, l'altro una sparatoria vicino nei pressi del consolato statunitense, poi in realtà un altro attacco a un elicottero militare nel sud-est del paese. Ci aggiorna su tutto Marco Barbonaglia, che è corrispondente per Radio 24 da Istanbul. Marco, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno Giampaolo, sì, ora sono davanti al consolato americano, in questo momento la situazione è molto più tranquilla naturalmente rispetto a questa mattina quando era stato completamente circondato dalle teste di cuoio, dalle forze di polizia. Ci sono ovviamente ancora dei poliziotti intorno e quando ho provato ad avvicinarmi mi hanno fermato, mi hanno chiesto i documenti, mi hanno perquisito sia la polizia turca che la sicurezza americana, questo è normale. Sì. Proprio con l'uomo della security americano ho potuto scambiare due parole e lui mi ha confermato che l'attacco è avvenuto questa mattina presto, che sono state due persone ad attaccare che hanno sparato, e dopo di questo, per quanto riguarda il consolato americano, lui ha detto loro non hanno più avuto altri problemi. Noi sappiamo che poi la sparatoria è continuata, è finita, sì, col ferimento di questa donna. Sì. Fra l'altro ci sono notizie, ci sono state rivendicazioni rispetto all'attacco al consolato statunitense? L'attacco è stato portato, secondo quanto viene riferito, la rivendicazione di questo gruppo si chiama DHKPC e significa Fronte Rivoluzionario per la Liberazione del Popolo. È un partito di ispirazione marxista-leninista, fuori legge ovviamente, un gruppo terrorista, non vastissimo, ma capace di portare attacchi estremamente precisi ed efficaci. Sono quelli che hanno rapito il procuratore distrettuale MMS Selim Kiraz, che poi è morto nel blitz della polizia a fine marzo, che hanno attaccato la centrale, il quartier generale della polizia di Istanbul. Attaccare, ecco, attaccare il consolato. Io sono davanti in questo momento, come sa, sì, bene si conosce la zona, che è una fortezza su una specie di collina. Attaccare il consolato in due persone armati di fucili significa fare un atto in qualche modo dimostrativo, che è nello stile, non significa non voler far male ovviamente, sì, ma significa non pensare seriamente di riuscire a entrare, qualcosa che è nell'ottica, nella mentalità di questo gruppo. Sì. Marco, mentre ti prego i suoni che arrivano sono particolarmente suggestivi e ci danno, come dire, l'impressione di questi momenti che pur più tranquilli sono tuttora concitati evidentemente, ti prego di spostarti leggermente dalla fonte sonora che udiamo. L'altra domanda che volevo farti è, siccome questa mattina Istanbul si è svegliata con nuovi motivi di preoccupazione, c'è stato un altro attacco invece a una stazione di polizia, un'altra zona di Istanbul, un agente è morto, un altro è rimasto ferito in modo serio, il bilancio al momento qual è per l'attacco alla stazione di polizia? L'attacco alla stazione di polizia è stato portato dall'altra parte della città, quindi non dove mi trovi adesso, nella parte europea, nella parte asiatica, a Sultan Bailey. È stato un attacco con un'autobomba molto molto più dannoso di quello portato al consolato americano, un attacco che ha fatto crollare parte del palazzo di tre piani della stazione di polizia, e dopo questo attacco sono stati attaccati nuovamente con armi da fuoco la polizia, ed è stato ucciso un ufficiale che stava investigando proprio sull'esplosione. Quindi il bilancio è 7 feriti civili 3 feriti per la polizia, 2 agenti, un ufficiale e un morto, un altro ufficiale di polizia. Sì, sì. E 2 morti ovviamente, coloro che attaccavano. Sì. Marco, che sensazione, che aria si respira a Istanbul in queste ore? Che sensazione hai potuto trovare parlando con la gente, prendendo i mezzi pubblici? Raccontaci un po' Istanbul, come sta vivendo queste ore dopo questi 2 ennesimi attacchi? Ma bisogna dire una cosa prima di tutto: Istanbul è una città enorme, da una parte all'altra ci sono più di 100 chilometri dall'estremità, e sia il consolato americano che la stazione di polizia sono completamente al di fuori di quello che consideriamo il centro, soprattutto il centro turistico commerciale della città. E quindi l'atmosfera apparentemente è abbastanza normale. Detto questo, quasi tutte le persone con le quali parlo mi dicono che è meglio rivolgere una particolare attenzione a non prendere, insomma, quando si prende la metropolitana o quando ci si trova in grossi centri commerciali, per esempio. Insomma, un po' di apprensione naturalmente c'è sotto l'apparente tranquillità. Ma la parte dove sta succedendo di tutto nel paese del sud-est, in realtà, dove è realmente pericoloso, non Istanbul per ora. Sì, sì. Quanto, l'ultima domanda, Marco, poi ti lasciamo al tuo lavoro sul campo. Quanto è visibile il dispositivo di sicurezza nella città, va ricordato che Istanbul è una meta turistica molto molto importante, fattura parecchi soldi grazie appunto al giro di turisti. Quanto è visibile la presenza dei militari e della polizia nelle strade? Non è particolarmente visibile, non più del solito, è visibile come sempre in alcune zone, come Piazza Taksim, ma devo dire che è più visibile quando ci sono per esempio delle proteste antigovernative, in questo caso è fin troppo visibile, ma in questo momento non si respira l'atmosfera assolutamente di una città blindata, non si vede particolarmente tanta polizia in città, soprattutto non nelle zone turistiche, ripeto. Sì. Grazie, allora Marco Barbonaglia, buona giornata Marco, buon lavoro. Buona giornata. Allora, queste erano le ultimissime da Marco Barbonaglia, che era proprio lì di fronte al consolato statunitense e, come avete sentito, è riuscito anche a parlare con gli addetti alla sicurezza del consolato e ci ha raccontato un po' meglio rispetto a quanto battevano le agenzie la dinamica di questo attacco. Ma chi sono questi elementi di questo movimento armato di estrema sinistra, la sigla è piuttosto lunga, di HKPC, che è un gruppo che è nella lista dei gruppi terroristi di Turchia, Unione Europea e Stati Uniti? Fu fondato nel 1978, ma qua la mia competenza si ferma e qua inizia quella invece di Valeria Giannotta, docente di relazioni internazionali all'Università dell'Associazione dell'Aeronautica Turca di Ankara. Professoressa Giannotta, ben ritrovata a Nessun Luogo è Lontano. Grazie mille, ben ritrovati a voi. Allora, professoressa, questo attacco è come se sparigliasse un po' le carte rispetto alla dinamica che ci stavamo abitando a seguire. Fra l'altro l'avevamo ospitata la settimana scorsa, si era parlato del doppio binario, del doppio nemico, no? di Erdogan, si è parlato di ISIS, si è parlato del PKK, e poi però ci si è dimenticati di questo terzo incomodo, tra virgolette ovviamente, che però ha puntato un target, un obiettivo che è molto, molto visibile, molto simbolico anche se vogliamo, appunto il consolato degli Stati Uniti, inarrivabile, da quello che ci raccontava anche Barbonaglia, è una specie di fortezza, quindi come dire, più una dimostrazione probabilmente. Perché questo attacco adesso e che cosa vogliono i membri di questo movimento armato? Ma è sostanzialmente un attacco da inserire in quella che viene definita la lotta al terrore portata avanti nelle ultime settimane dal Partito della Giustizia e dello Sviluppo, fondato nel 2002 dall'attuale presidente Recep Tayyip Erdogan. Quindi nel mirino ci sono tutte le organizzazioni terroristiche operanti in Turchia, parliamo di ISIS da una parte, di PKK che agisce sostanzialmente nel sud-est anatolico, ma c'è anche il HKPC, appunto il Fronte Rivoluzionario di Liberazione del Popolo, che è attivo in Turchia dal 1978. È un partito, più che partito lo chiamerei un'organizzazione di militanza politica, di una chiara retorica marxista-leninista che verte su posizioni chiaramente anti-occidentali. Quindi non è un caso che il consolato americano di Istanbul sia stato preso di mira questa mattina. C'è da ricordare che già nel 2013 l'ambasciata americana ad Ankara comunque era già stata attaccata e aveva fatto numerosi morti. è classificato come organizzazione terroristica dal 2007 e sostanzialmente opera puntando il dito contro il governo turco, ritenuto controllato da politiche imperiali su base americana e su base NATO. Quindi sì, sostanzialmente questo è il quadro ideologico da inserire sostanzialmente nelle politiche, nella strategia attuata ultimamente dal governo della KPK, sostanzialmente dall'apertura della base aerea di Incirlik nel sud-est storico. Sì. Da ricordare infatti che negli ultimi giorni la Turchia, dopo la riluttanza degli ultimi mesi di essere parte attiva della coalizione occidentale anti-ISIS, ha aperto la propria base aerea di Incirlik, quindi i primi gesti americano F-16 sono partiti proprio per colpire sia basi ISIS che basi di KK nel nord Iraq. È un'organizzazione che agisce in permittenza, se vogliamo, cioè molto spesso non ci si ricorda della sua esistenza, però ha colpito con veemenza già nel 1980, quando ha portato all'uccisione del primo ministro dell'epoca, Nihat Herim, e poi negli anni 90 vi è stata un'escalation di violenza dove proprio gli obiettivi principali erano obiettivi occidentali, quindi ha portato all'uccisione di businessmen britannici, incluso uno dei più importanti e prominenti businessmen turchi, Özdemir Sabancı. E poi appunto ha portato anche all'uccisione di numerose figure militari appartenenti ai corpi di polizia. Sì, diciamo un curriculum dal punto di vista militare, di obiettivi importante. Dal punto di vista strettamente militare, della logistica, anche del numero dei militanti, si ha qualche idea? Le cellule dove sono situate? È possibile fare anche una pur sommaria radiografia di questo movimento? Ma in realtà no, cioè si sa che ultimamente comunque in seguito dei raid portati avanti dal governo e dalla polizia più di 1300 persone sono state portate in carcere, non si sa quanti appartengono al DHKPC, quanti appartengono al PKK, quanti appartengono al DHKPC. Come è stato detto, l'esperienza di sinistra in Turchia è sempre stata un'esperienza considerata antisistemica. Quindi tutti i partiti di sinistra, sostanzialmente tutti i partiti di estrema sinistra, quindi fronte rivoluzionario di liberazione del popolo, sono sempre stati considerati fuori dal sistema. Sì. Cioè dire che la retorica che accomuna forse l'operato del DHKPC e l'operato del PKK in questo periodo è proprio questa forte connotazione marxista, quindi nel caso del PKK di autodeterminazione del popolo, mentre nel caso del DHKP di sostanzialmente una retorica anti-occidentale, anti-NATO. Sì. Professoressa Gianotta, l'ultima domanda riguarda invece possibili alleanze, visto che, come dire, Erdogan va con i muscoli in vista, mostrando i muscoli e picchiando duro contro ogni organizzazione terrorista. Allora c'è il rischio o la possibilità all'orizzonte che formazioni anche apparentemente lontane cerchino in qualche modo un'alleanza, o è, come dire, fanta geopolitica? Ma sostanzialmente c'è da dire che il contesto in cui sta operando Erdogan in questo periodo è un contesto estremamente polarizzato, estremamente caratterizzato da linea di frattura, quindi una linea di frattura che non fa più riferimento a una logica islamista contro una logica secolare, quella che ha portato, se vogliamo, all'ascesa del partito della giustizia e dello sviluppo nel 2002, ma adesso facciamo riferimento anche delle linee di frattura molto forti di base etnica per quanto riguarda appunto la questione curda e di base fortemente ideologica per quanto riguarda il DHKP. Sì. Il dato veramente preoccupante in questo periodo, che è quasi a 45 giorni dopo le elezioni e a fronte di un contesto così critico e così fragile, la Turchia non ha ancora un governo. Sostanzialmente alle 6 di questo pomeriggio, quindi dalle 6 di questo pomeriggio, è previsto un meeting tra i vertici del Partito della Giustizia e Sviluppo e il principale partito d'opposizione repubblicano del popolo per discutere i dettagli di una eventuale grande coalizione. Sì. La sensazione che si ha è sostanzialmente che il presidente Tayyip Erdogan voglia andare a elezioni anticipate per non perdere il controllo che ha sia all'interno del governo ma anche nelle posizioni. Sì. Certo, davanti a uno scenario di questo genere, il malcontento sociale è molto forte e si avverte. È un malcontento che porta a una situazione di sfiducia verso il prossimo, in cui le linee di frattura, appunto, abbiamo detto, rischiano di approfondirsi sempre di più. Quindi è un gioco abbastanza critico quello che il presidente sta portando avanti. Sì. Sì. Grazie Valeria Giannotta, docente di relazioni internazionali all'Università dell'Associazione dell'Aeronautica Turca di Ankara. Buona giornata e buon lavoro, Giannotta. Grazie a voi. E quindi la considerazione in ultima istanza da fare è se questo pugno duro di Erdogan e eventualmente un nuovo appuntamento elettorale, se potrà essere monetizzato in un altro appuntamento elettorale. L'obiettivo suo principe, l'abbiamo detto nelle scorse trasmissioni di Nessun Luogo Lontano, è fondamentalmente indebolire l'ala politica curda che un buon successo aveva ottenuto alle elezioni, e quindi tutte queste sue mosse potrebbero essere lette in questo senso. Vedremo. Questa era la prima pagina tutta dedicata alla Turchia, adesso si volta pagina e si va negli Stati Uniti. Please get him some help. Crime scene, back up. Man, get him some help. Back up. Get him some help. Back up. Damn well, get the man some help. We see him breathing on him, man. You see he's still alive. He's still alive. Get him some help, man. E quello che sentite sono le concitatissime scene di questa notte. C'era questa manifestazione per ricordare l'omicidio di Michael Brown. A un anno di distanza siamo a Ferguson, e lì un conflitto a fuoco, una sparatoria, e quello che sentite è l'audio di alcuni video che sono stati girati da utenti Twitter, che poi alcuni giornali, tra cui il Guardian, il britannico Guardian, avevano riproposto in rete. Il bilancio della scena di violenza che avete udito è un ferito grave, che è proprio la persona che avrebbe sparato contro la polizia. Era prevedibile questo episodio di violenza? Cosa sta succedendo nella piccola città di Ferguson, che dall'anno scorso, dopo l'omicidio di Michael Brown, è sotto i riflettori e che ha riscoperchiato un problema sociale, quella profonda frattura sociale che esiste fra la comunità afroamericana e, più che quella bianca, direi le istituzioni statunitensi. Ci soccorre in questa analisi Stefano Luconi, che è docente di storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Professor Luconi, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, già ci siamo sentiti durante l'anteprima di Nessun Luogo Lontano alle 13, in parte ha introdotto i temi che affronteremo adesso. Certo, per uno storico e poi col senno di poi è facile dire, no? Era prevedibile un episodio di violenza come questo. Sì, perché in fondo si innesta in fondo a tutta una serie di incidenti razziali che hanno costellato l'ultimo anno. Cioè, la lezione di Ferguson in un certo senso è stata inascoltata. Soltanto nello scorso mese ci sono stati due episodi in cui individui afroamericani sono rimasti uccisi da parte di agenti della polizia. C'è stato il caso di Baltimore dello scorso aprile, quindi c'è evidentemente una fortissima tensione tra le forze dell'ordine e la comunità afroamericana, legata anche al fatto che molto spesso le forze dell'ordine non rispecchiano come composizione la comunità in cui operano. Il caso di Ferguson da questo punto di vista è un po' una sorta di microcosmo, perché su una forza di polizia di una cinquantina di agenti soltanto 4 sono afroamericani, in una cittadina dove il 2/3 della popolazione sono afroamericani, quindi non c'è una identificazione, diciamo così, tra le due parti. Sì, infatti stiamo parlando, professore, di un piccolo comune, 21.200 abitanti, siamo in Missouri, la contea è quella di St. Louis, in cui lei citava giustamente questi dati, ne aggiungerei un altro, che è quello del tasso di disoccupazione, che nella cittadina di Ferguson, se andiamo a vedere i disoccupati neri e i disoccupati bianchi, c'è una forbice gigantesca, più o meno 1-2. Se andiamo a vedere nell'intera contea di San Luis, i disoccupati afroamericani sono molto molto di più, il 17.8% contro il 5.7% dei bianchi. Quindi è evidente che esiste una frattura, è evidente che, come diceva lei, il corpo di polizia assolutamente non rispecchia quella che è la realtà sociale sottostante. Perché il presidente Obama finora non ha lavorato, almeno forse l'ha fatto solo a parole, su questi problemi? Non c'è solo Ferguson negli Stati Uniti, non c'è solo il Missouri, evidentemente è un problema che attraversa alcuni degli Stati Uniti d'America, eppure un presidente nero poteva cogliere la palla al balzo, poteva forse far qualcosa. È una delle occasioni perse di Obama, secondo lei? Sicuramente sì, ma da questo punto di vista Obama è partito col piede sbagliato, nel senso che per garantirsi l'elezione nel 2008 in circostanze giocate su tutte questioni completamente diverse, la politica estera, l'intervento in Iraq, la recessione economica, ha sempre cercato di mettere la sordina sulla questione razziale, perché era un aspetto che rischiava di penalizzarlo in un paese in cui gli afroamericani sono grosso modo il 13% della popolazione totale, quindi non sono un gruppo sufficiente per conquistare la principale carica del paese. Obama è stato ritenuto aver condotto una politica cosiddetta post-razziale, cioè una politica in cui le rivendicazioni tipiche degli afroamericani, in primis la giustizia razziale, sono state lasciate ai margini. Secondo lei, qui come dire, la provoco perché lei è uno storico, quindi secondo lei ci risentiremo tra un anno e Ferguson verserà nella stessa situazione di tensione, di mancata risoluzione di queste questioni etniche? Ma io personalmente spero che non ci risentiremo, temo però che ci risentiremo, perché non dimentichiamoci che a Ferguson ci sono stati degli altri incidenti nel novembre scorso, quando la giuria, anzi il gran giurì incaricato di vagliare la posizione dell'agente responsabile della morte di Michael Brown ha deciso il non luogo a procedere. E anche questo è un problema dalla prospettiva degli afroamericani, perché ci si rende conto che le istituzioni, la giustizia, i tribunali emettono sempre verdetti, prendono sempre decisioni che vanno contro quella che è la posizione degli afroamericani. Quindi temo che le cose si ripeteranno. Ancora una volta Ferguson purtroppo è il microcosmo degli Stati Uniti, perché la forbice che nel Missouri è molto ampia tra disoccupati bianchi e disoccupati afroamericani rispecchia un indice nazionale in cui la disoccupazione degli afroamericani è circa il doppio di quella dei bianchi. E questa è sicuramente una delle cose che Obama dovrà, l'amministrazione statunitense in generale, dovrà affrontare, perché è fonte di tensioni sociali ma anche di episodi di violenza, come abbiamo sentito. Grazie mille al professor Stefano Luconi, insegna storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova, con l'augurio di non risentirci tra un anno a questo punto, professore. Spero anch'io, grazie a voi. Grazie professore, buona giornata e buon lavoro. Allora vi ricordo le coordinate per interagire con noi, 349-238-6666, un po' di ascoltatori che tornano sul tema immigrazione, che però non è quello di oggi, ne parleremo certamente nei prossimi giorni, perché la cronaca ci consegna continuamente spunti, quindi non vi preoccupate che avremo modo di parlarne, ma tra un po' facciamo il punto invece sul tribunale di Amburgo, il caso dei due Marò, prima l'informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Terza pagina di Nessun luogo è lontano, questa tutta dedicata all'udienza ad Amburgo, il Tribunale del Mare, il caso dei due Marò. E allora andiamo ad Amburgo. Please be seated. The International Tribunal for the Law of the Sea is now in session. L'audience du Tribunal International du Droit de la Mer est ouverte. E così è partita questa prima udienza al Tribunale del Mare di Amburgo. Che cosa deciderà questo Tribunale? Che cosa c'è in ballo? Come l'Italia si è presentata? Adesso ve lo raccontiamo con un esperto. Prima però vi dobbiamo rendere conto di un duello al più che al fioretto, a colpi di mannaia, perché è vero che sono diplomatici ma non se le sono mandate a dire. Ieri l'ambasciatore all'AIA Francesco Azzarello aveva detto che l'India aveva dimostrato particolare aggressività, ma poi aveva aggiunto: ma noi siamo estremamente determinati a far valere le nostre ragioni. E poi però quest'oggi ha rincarato la dose e ha dichiarato che l'India ha dimostrato di disprezzare il giusto processo e tiene ostaggio Salvatore Girone. La sicurezza e la vita di Massimiliano Torre e l'altro fuciliere sarebbero a rischio se fosse costretto a tornare nel paese asiatico. Questi i primi colpi di dichiarazioni diplomatiche. Prima però di andare a capire che cosa si decide ad Amburgo, che tipo di tribunale è, ricapitoliamo la vicenda dei due fucilieri. 15 febbraio 2012. La petroliera italiana Enrica Lexi incrocia la rotta del peschereccio St. Anthony, a largo delle coste del Kerala. Vengono esplosi dei colpi d'arma da fuoco dalla petroliera. Due pescatori rimangono uccisi. La versione italiana: solo colpi di avvertimento. 19 febbraio. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone vengono arrestati con l'accusa di omicidio. 22 febbraio. L'Italia presenta una petizione per far cadere l'accusa, invocando il difetto di giurisdizione indiano e l'immunità funzionale dei Marò. 25 maggio. Viene concessa la libertà su cauzione, con il divieto di lasciare la città di Kochi. 20 dicembre. Accolta la richiesta di un permesso per le festività natalizie in Italia. 9 marzo 2013. New Delhi avvia le procedure per la costituzione di un tribunale speciale. 11 marzo. Il ministro degli esteri Giulio Terzi annuncia che i due militari, in Italia su permesso di 4 settimane, non torneranno in India. Nuova Delhi limita la libertà dell'ambasciatore italiano. 23 marzo. I Marò tornano in India e il ministro degli esteri Terzi, in disaccordo, annuncia le dimissioni. 12 settembre 2014. La Torre viene rimpatriato per motivi di salute e non tornerà mai più in India. 26 giugno 2015. L'Italia attiva l'arbitrato internazionale presso la Corte Permanente di Arbitraggio dell'AIA. Oggi, prima udienza ad Amburgo presso il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare. Il verdetto è atteso per la fine del mese. Tra le richieste italiane ci sono una serie di misure cautelari urgenti a tutela dei due Marò. La prima, che Girone possa rientrare. La seconda, che la Torre, che a casa appunto da settembre 2014, non debba tornare in India, ma ovviamente la richiesta principe è che l'India non eserciti nessun tipo di giurisdizione su questo caso. Allora, ci soccorre in questa analisi Giuseppe Nesi, professore di diritto internazionale, preside della Facoltà di Giurisprudenza di Trento. Professor Nesi, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, professore, la prima risposta, la prima domanda che le faccio è questa: che cosa deciderà Amburgo? Amburgo ha attivato, l'Italia, presso il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, che ha sede ad Amburgo, una procedura che è volta in questa fase semplicemente a chiedere l'adozione di misure provvisorie da parte del Tribunale per il Diritto del Mare. Lei ha ben sintetizzato, si tratta fondamentalmente di due questioni. La prima è quella del rigetto di qualsiasi tipo di giurisdizione da parte dell'India, la seconda è quella di permettere ai Marò di poter fare rientro in patria per ovviamente colui che è ancora agli arresti domiciliari, mentre l'altro dovrebbe poter rimanere nel nostro territorio dove gli è stato permesso di venire per curarsi. Sì. Quindi il tribunale non deciderà sul merito del caso, attribuisce semplicemente la competenza, cioè se deve essere l'Italia o se deve essere l'India a giudicare e andare a esplorare i fatti, quello che realmente è successo quel giorno. Ovviamente queste misure provvisorie sono direttamente collegate poi al merito, che invece dovrebbe essere deciso dal tribunale arbitrale, che inizierà le proprie udienze a partire dalla fine di questo mese. Sì. Se ho ben capito, leggendo la stampa che ha raccontato le vicende degli ultimi 3 anni, una delle questioni cruciali per decidere sia la competenza sia la cosiddetta fascia continua, cioè l'episodio dell'apertura del fuoco sarebbe venuto a 20,5 miglia di distanza dalla costa indiana, quindi oltre le acque territoriali indiane, ma in questa cosiddetta fascia contigua, che io ho letto venga richiamata da questa convenzione di Montego Bay. Ci aiuta a capire bene, sì, intanto se è una questione cruciale questa della fascia contigua, e secondo, che cos'è questa fascia contigua? Molto brevemente, molto sinteticamente, la fascia contigua è una fascia di 12 miglia al di là del mare territoriale, che è anch'esso di 12 miglia, che parte dalle coste dello Stato territoriale. Quindi abbiamo intanto il mare territoriale, dove lo Stato costiero esercita le medesime prerogative che sul proprio territorio, quindi anche giurisdizione per tutto quello che avviene in queste prime 12 miglia a partire dalle coste dello Stato costiero. Sì. Dopodiché c'è una zona ulteriore di altre 12 miglia nelle quali lo Stato costiero può esercitare determinate competenze che hanno fondamentalmente a che fare con le questioni doganali, le questioni fiscali, l'immigrazione o le questioni sanitarie. Ora, è chiaro che ciò di cui si discute qui non ha nulla a che fare con questi 4 ambiti di competenza, e quindi si può ben dire che benché l'evento sia avvenuto nella zona contigua, in realtà si tratta di acque internazionali. Il diritto internazionale stabilisce che nelle acque internazionali, per ciò che avviene a bordo dei vascelli o delle navi che transitano in quell'area, la competenza per ciò che avviene a bordo è dello Stato della bandiera, e quindi nel caso di specie ovviamente della giurisdizione italiana. Sì. Non è stato un tempo lunghissimo, professore, per arrivare a questa udienza del Tribunale del Mare di Amburgo? Ci sono voluti 3 anni? Certo, è un tempo molto lungo, si pensi peraltro che in questi 3 anni non c'è stata da parte dell'India un comportamento uniforme, non c'è stata una chiara indicazione di quelle che erano i comportamenti che si ritenevano costituire un reato da parte dei fucilieri italiani, e poi soprattutto, come ben sappiamo, c'è stata una serie di vicende politiche interne all'India che hanno senz'altro influito purtroppo anche sulle decisioni della magistratura. Tutti conoscono, ahimè, il rimpallo di competenze e anche di giurisdizioni all'interno del sistema giudiziario indiano, e con un coinvolgimento anche della Corte Suprema indiana, che in un certo momento sembrava avere sancito che gli eventi, essendo avvenuti in acque internazionali, implicassero la giurisdizione da parte dell'Italia. Ritengo, spero, ecco, che questi problemi contingenti legati alle vicende politiche indiane siano superati. Forse l'Italia ha fatto quel che ha potuto, per quel che mi risulta. So che si è tentato più volte di raggiungere una transazione, una soluzione concordata. Questo non è stato possibile proprio perché in determinate circostanze, purtroppo, ahimè, anche il diritto viene strumentalizzato, viene utilizzato per fini che con l'affermazione della certezza del diritto poco hanno a che fare. Il risultato è questa odissea che speriamo venga a finire in tempi brevi. Certamente avere attivato non solo oggi la richiesta di misure provvisorie, ma anche l'arbitrato internazionale, e qualora si riesca ad avere un atteggiamento costruttivo da parte delle autorità indiane, potrebbe essere la strada da percorrere. Sì. Fra l'altro, insomma, lei diceva questo procedimento è stato inquinato da una serie di dinamiche politiche, anche economiche. C'è che ha scritto sull'Espresso, ma vi ricordate quella commessa di Fincantieri? Si è sbloccata proprio quando i Marò sono tornati in India. Insomma, certamente anche quel dietro front nostro, nel senso di italiano, del ministro degli esteri, insomma, non è stata una questione gestita in maniera limpida, in maniera lineare. Su questo non c'è dubbio, e quindi ha scatenato anche una serie di speculazioni, però ripeto, siccome ci sono un po' di sms che dicono hanno sparato, hanno ucciso, un altro che dice ma se i Marò sono innocenti perché il Ministero della Difesa ha risarcito i familiari dei pescatori assassinati, allora sarà il tribunale, vediamo dove, che dovrà ricostruire i fatti e dire quello che è successo, e dovrà dire se sono colpevoli o meno. Io francamente sono perplesso di fronte a tanta sicurezza da parte di chi ricostruisce i fatti ed è convinto di sapere come sono andate le cose. Io non ne ho idea. Spetta evidentemente a una corte stabilire come andranno le cose. L'ultima sollecitazione, professor Nesi, se il processo dovesse andare a svolgersi in India, lei nutre timori? E la mia domanda è scevra da qualsiasi spirito campanilistico o non so come dire, patriottico spinto. Il sistema giudiziario indiano, secondo lei, è un sistema che garantirebbe un processo equo e giusto, al di là dei fatti, Ma vede, dottor Musumeci, qui il problema non è solo quello dell'efficienza dell'efficienza, dell'imparzialità, della terzietà, no, per così dire, ovviamente, delle corti indiane. Qui il problema è che c'è stata una tale mediatizzazione di questa importante vicenda che nessun paese, neanche un paese importante come l'India, può immaginare condurre un processo qualora ovviamente il processo dovesse svolgersi davvero in India, ipotesi che io non mi sentirei però di avallare, ma qualora dovesse davvero svolgersi in India, la mediatizzazione del caso è tale che nessun giudice in nessun paese del mondo può immaginare di condurre una azione giudiziaria che sia immune dalla pressione, anche dal monitoraggio attivo da parte non solo ovviamente delle autorità italiane, ma direi da parte delle organizzazioni non governative che si battono per la tutela dei diritti umani e che in questa circostanza forse ancora non hanno fatto sentire abbastanza la loro voce, perché tendono in queste circostanze a non prendere posizione per gli uni o per gli altri. Detto questo, ci sono interessi statali, ma ci sono anche forti e importanti, c'è una forte e importante dimensione riguardante i diritti umani che non può essere, a mio avviso, tralasciata. Non è possibile che per più di tre anni non ci sia stata la formalizzazione di un reato, non è possibile che si debba aspettare tanto tempo perché ci sia una pronuncia da parte di un tribunale in un caso, ripeto, anche estremamente mediatizzato, estremamente noto alla pubblica opinione mondiale. Quindi io non ho ragione di dubitare che se il processo si dovesse tenere in India, questo avverrà secondo i crismi dello Stato di diritto, ma allo stesso tempo nessuno si illuda che se il processo dovesse svolgersi in India, i riflettori di coloro che sono più interessati, ma anche di coloro che sono interessati alla tutela dei diritti fondamentali, non resteranno accesi. Grazie. Era il professor Giuseppe Nesi, professore di diritto internazionale, preside della facoltà di giurisprudenza di Trento. Professor Nesi, buona giornata, buon lavoro. Grazie, buonasera, buon lavoro a voi. Allora, adesso velocemente il traffico, poi la quarta e ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Questa è l'ultima pagina di Nessun luogo è lontano. Vi ricordo le coordinate: 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande via SMS, Twitter, Nessun luogo 24, oppure Giampaz, Facebook. La pagina è Nessun luogo è lontano - Radio 24. Allora, in quest'ultima pagina io vi riporto in Messico. Io sé, señoras, señores, sé que el miedo el terror que ha vivido los paralizó. Estamos aquí, los jueces, señoras, porque dentro de nuestro territorio nos quitaron 17... E la voce che sentite l'abbiamo recuperata su internet, perché dopo la sua morte tante persone che lo conoscevano hanno raccolto le sue testimonianze, hanno raccolto la sua voce. È lui che era un attivista che aiutava le ricerche di quei 43 studenti scomparsi in Messico e che più di una volta in pubblico si era esposto con la sua associazione, li aveva cercati quei 43 studenti. Il suo cadavere è stato ritrovato sabato sera sul posto del guidatore di un taxi nella città di Xaltanguis, nello stato di Guerrero. Lui era Miguel Ángel Jiménez. Ed è solo l'ultimo di una lunga lista di cui vi abbiamo dato conto la settimana scorsa, quando vi abbiamo raccontato di come il Messico decisamente non è un paese per giornalisti. Ve l'avevamo raccontato dopo che il fotogiornalista Ruben Espinosa e l'attivista Nadia Vera erano stati ritrovati cadavere. Anche loro cercavano di scoperchiare quella intricata matassa fatta di potere politico, di collusione coi narcos, di potere criminale. E scoperchiare questo genere di cose spesso, ai noi, costa la vita. E proprio per cercare di risvegliare la coscienza, la società civile, quella messicana in realtà pare avere dei possenti anticorpi, perché continua a muoversi nonostante le minacce, nonostante le sparizioni, nonostante le morti. Quello di cui stiamo parlando è una vera e propria mattanza. Sono più di 100 i giornalisti assassinati dal 2000 a oggi. Tra il 2007 e il 2014 in Messico ci sono stati 164.000 omicidi di civili. Negli stessi anni in Afghanistan e in Iraq si sono contate 104.000 vittime. Questo per dare un'idea di quello che accade in un paese che per noi suona assolutamente lontano, e che una petizione, un appello fatto da una serie di intellettuali, di giornalisti, e indirizzato al Parlamento italiano e all'Unione Europea, cerca in qualche modo di colmare questa distanza, questa lontananza rispetto appunto al Messico. L'appello lo potete trovare in internet, perché l'hashtag è Mexico no surge. Sicuramente ho sbagliato la pronuncia, vediamo se mi bacchetta le mani. Fabrizio Lo Russo, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Ciao, buongiorno. Allora Fabrizio, scusaci per la levataccia che ti abbiamo fatto fare, perché ti abbiamo fatto squillare il telefono stamattina veramente prestissimo. Fabrizio Lo Russo è un giornalista freelance, insegna anche a Città del Messico storia dell'America Latina, e ci aveva raccontato di questo appello, ci aveva aiutato a ritrarre anche Ruben Espinosa e Nadia Vera. E poi però c'è quest'ultima morte recentissima, Fabrizio, che non avremmo voluto commentare, ma la cronaca ci impone di richiamarti e di fare un nuovo commento su questa tragedia. Purtroppo c'è un detto qui in Messico molto macabro ma reale, che dice che a los muertos de hoy lo tapan los muertos de mañana. I morti di oggi vengono subito coperti dai morti di domani. Fabrizio, perdonaci, ma la linea non ci soccorre certamente. Allora proviamo a richiamarti e a ristabilire una connessione un po' più intellegibile. Intanto allora ne approfitto per dargli il buongiorno e il benvenuto a Nessun Luogo Lontano a Ignazio Corrao, membro per la sottocommissione dei diritti umani del Parlamento Europeo. Corrao, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie per avermi invitato. Allora, Ignazio Corrao, il tema è suo perché lei fa parte della sottocommissione dei diritti umani del Parlamento Europeo. E perché è suo? Perché questo appello, questa istituzione che adesso vi sintetizzo, è indirizzato sia all'Italia ma anche all'Unione Europea. Oltre questo appello che trovate in internet, ve l'ho detto, l'hashtag è Mexico nos urge, chiede all'Italia e all'Unione Europea che si sospendano tutte le relazioni politiche e commerciali con il Messico fino a quando non si farà luce su questi gravi casi di omicidio, di sparizione forzata, eccetera. Addirittura si chiede ai paesi dell'Unione Europea di applicare l'embargo agli investimenti in Messico e addirittura chiudere le ambasciate, come si è fatto in passato con il caso di altri paesi che non rispettavano i diritti umani. Ignazio Corrao, quanto è percorribile secondo lei una petizione di questo tipo? Lo ricordo che per il momento sta raccogliendo le firme, poi dovrà seguire anche un iter particolare, no? per arrivare al Parlamento Europeo. Sì. Beh, ma in realtà credo che noi tutti europarlamentari della sottocommissione dei diritti umani questo appello l'abbiamo già accolto ancora prima che ci arrivasse, perché abbiamo fatto una risoluzione, abbiamo anche invitato al Parlamento europeo i genitori dei ragazzi di Iguala, no? Degli studenti, dei 43 studenti di Iguala che sono scomparsi, che sono stati presumibilmente uccisi, anche se i genitori non se ne vogliono ancora, chiaramente non se ne fanno una ragione, e abbiamo richiesto comunque nei nostri atti alla Commissione di valutare appunto una rivisitazione degli accordi commerciali che abbiamo col Messico. Noi oggi abbiamo un accordo di libero scambio con il Messico che è molto vantaggioso e che viene diciamo accolto, viene raccontato da chi lavora nel commercio internazionale come un accordo che anzi va migliorato e rivisto. Noi abbiamo avuto c'è stato un incontro tra la commissaria Malmström e il suo comunque pari funzione messicano, che dovrebbe essere Villarreal, che in cui appunto parlavano di incrementare i rapporti, incrementare gli scambi, e partivano da un presupposto che i rapporti tra l'Unione Europea e il Messico sono dei rapporti davvero buoni. Sì. L'unico problema, come avete già comunque, come stavate commentando voi, è che in questo trattato di libero scambio c'è una clausola che viene sistematicamente violata, che quindi è il rispetto dei diritti umani. Sì. Allora, intanto abbiamo ristabilito il collegamento con Città del Messico. Fabrizio Lorusso, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, ci sono. Adesso ti sentiamo bene. Insomma, si diceva è una morte che non avremmo voluto commentare. Noi eravamo già entrati nelle pieghe di questa petizione che parecchi esponenti anche del mondo della cultura e del giornalismo italiano stanno, anche tanti politici stanno segnando. Però in questa petizione le richieste sono forti, sono pesanti. Quanto realisticamente credi che davvero l'Unione Europea applicherà un embargo agli investimenti in Messico e potrà chiudere le loro ambasciate? Fabrizio Lorusso. Ma penso che allora il punto dell'appello è segnalare una realtà, e il fatto di poterne prendere atto, sì, e stimolare una discussione in quel senso già potrebbe essere un primo risultato. Dicevo, un ottimo punto di partenza, intanto accendere i riflettori su quello che accade in Messico. Accendere i riflettori, e poi l'appello si basa su delle clausole stabilite. Sì, sì, che fra l'altro Ignazio Corrao stava appunto ricapitolando, insomma non è campato in aria. Certo, come dire, le eventuali sanzioni da parte dell'Unione Europea dovrebbero passare di fronte al business, al denaro, e insomma io qua sono un po' cinico, sarebbe bello che vi, chiaro, fossero risposte di questo tipo, no? La questione dei diritti umani è spesso relegata in secondo, in terzo piano, chiaramente, sì, però questo non significa che se ne possa intanto parlare e che si possa intanto denunciare quello che succede, nella speranza che le cose cambino. Certo, no? Certo. Ignazio Corrao, ci può svelare un po' meglio? Allora, una volta che verranno raccolte tutte queste firme e finisce al Parlamento Europeo, qual è l'iter? Perché poi vi sia una discussione, immagino, in seno a Bruxelles? In realtà è una procedura che è stata prevista da poco, non ci sono tanti precedenti, e si passa attraverso la commissione delle petizioni, che appunto raccoglie le petizioni che arrivano dai cittadini europei e poi le ingloba nella discussione parlamentare. Però il punto è, io sono assolutamente d'accordo con questo manifesto e lo sottoscrivo in pieno, anche perché sì, cioè, una buona parte del Parlamento europeo ha una grossa sensibilità nel tema dei diritti umani. Il problema, sì, è che nel funzionamento dell'Unione Europea la forza del Parlamento europeo su temi così rilevanti è una forza molto limitata, perché noi, nonostante siamo riusciti, l'abbiamo fatto anche con una risoluzione riguardo il Messico nel passato ottobre, se non ricordo male, diamo dei moniti alla Commissione nel cercare, sì, appunto di rivedere le nostre posizioni, i nostri accordi, anche eventualmente con delle misure forti, ma questo non è accaduto soltanto nei confronti del Messico, l'abbiamo fatto nei confronti di tantissimi stati che violano sistematicamente i diritti umani. Però purtroppo, essendo l'Unione Europea basata innanzitutto sugli interessi commerciali, economici, globali, rimangono un po' lettere morte. Insomma, la Commissione ci dice sì, lo faremo presente, gli mettiamo le clausole, gli mettiamo degli articoli davanti in cui chiediamo determinati rispetti, però poi sostanzialmente non abbiamo un potere cogente di fronte ai grandi interessi economici che ci sono dietro le relazioni commerciali, chiaramente, tra un grande paese come il Messico, un grandissimo mercato come l'Unione Europea, perché stiamo parlando di 500 milioni di consumatori, perché loro così ci considerano, vengono come diceva, come dicevate benissimo, vengono meno, comunque vengono messi in terzo se non in quarto piano i temi dei diritti umani, mentre secondo me dovrebbero essere assolutamente al primo posto. Temi primo ordine, sì, al primo posto. Grazie per questa sottolineatura e questa denuncia. Ignazio Corrao, membro sotto commissione diritti umani del Parlamento Europeo. Grazie anche a Fabrizio Lorusso, giornalista freelance e docente universitario Città del Messico. Ho 10 secondi, titoli di coda velocissimi. Quali ringrazio voi per essere stati all'ascolto, ringrazio Margherita Ina, Gianni Rosini e Emanuele Brignoli in redazione e in regia, c'era Andrea Roccabella, l'appuntamento è per domani, sempre ore 16, quando di nuovo nessun luogo sarà lontano.